Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Pino, ci hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Popolo italiano, siamo sotto attacco! Siamo sotto attacco! Per colpa del migliore dei mondi possibili che le multinazionali hanno confezionato con la complicità dell'Unione Europea e del governo italiano. Società del controllo tecno-dittatoriale che fa del 5G, dell'intelligenza artificiale, della robotica, dell'internet delle cose, delle vere e proprie armi di geopolitica. Miliardi di euro all'Europa per lanciare in orbita satelliti, addirittura costellazioni di 36 satelliti 5G che dallo spazio irradieranno ogni cosa sul pianeta Terra. Tutto questo mentre avanza le nanotecnologie, avanza il microchip nel cervello per il transumanesimo predisposto da Elon Musk e da Bill Gates. C'è bisogno di una tecno-ribellione civile, consapevole e democratica nell'autodeterminazione digitale. Restiamo umani! L'unico mio errore che mi sono drogato. Buonasera ai radioascoltatori. Ma quale buonasera, quali radioascoltatori? È una trasmissione di merda questa! Dove è una trasmissione orribile! Non la devi ascoltare! Via! Basta! Alla faccia di questa radio del decoro! David fa soltanto finta di essere schifato dalla trasmissione. Lui è dipendente dalle scariche di adrenalina provenienti dai suoi surreni. Lui si presenta lunedì col durello pronto a sbranare il primo complottista che gli si para davanti. Coraggio David, ammazzali tutti sti complottisti. Let's take the night. È vero o no? Purtroppo in collegamento da Roma un David Parenzo gongolante, gongolante perché oggi vede i casi salire, anche se non capisce un cazzo perché ci sono stati più tamponi. Devi leggere bene i dati, ovviamente, David. Ma ti ho sentito prima gongolante. Sei contento? Sei quasi contento che si allarghi? Che si allarghi quello che tu chiami il disastro? Sei dalla parte di Crisanti che dice che ci sarà un lockdown a dicembre, come fosse il divino Otelma. Come il divino hotel, ma come fai a prevedere che ci sarà un lockdown a dicembre? Calcoli, o che ci curve, vorrebbe? Calcoli, algoritmi, ma nessuno Italia, ha mai previsto un calcoli, cazzo. I calcoli, dai. L'avevano previsto quello che sarebbe accaduto a marzo e aprile, chi, e infatti chi, c'è stato il lockdown. Nessuno. Oggi nessuno gongola. 7.332 casi in meno di 24 ore. 150.000 tamponi morti. Io mi auguro che la situazione vada al meglio perché vivo anch'io in questo mondo. Vado anch'io a lavorare. Ho anch'io quattro figli, tre che vanno a scuola e una che sta a casa. Con quel golf che anch'io c'hai addosso, vivo con in quel golfino mondo, di Kashmir. Ma vi dico che siete fashionable, ma vi dico che siete degli irresponsabili tu a dire che va tutto di bene. Dillo apertamente, Kashmir. È Kashmir, no, puro quando Kashmir. Lo avrò te lo dirò. 300 euro di maglione come minimo, quando lo metterò ve lo dirò perché ne ho parecchi in Kashmir. In collegamento da questo Roma, non lo è fashionable. Tu che cazzo te ne frega nel lockdown? In collegamento. Sono partita IVA, non sono come te, un assunto a tempo indeterminato con la qualifica di inviato, e qualcuno domani mi dovrà spiegare perché hai la qualifica di inviato visto Roma, che non muovi il culo da Milano. In collegamento da Roma, no, anche perché non mi fanno neppure andare lì nella capitale. In collegamento da Roma, David Parenzo, eccoci. Non lo sai, una tragedia, ragazzi. I dati del bollettino della pandemia. In collegamento dal suo letto di Abano Terme, Alberto Gottardo. Eccoci dalla qua. dalla suite dell'undicesimo piano, piano. Io vi guardo con una certa indifferenza. Sì, perché questo, secondo me il Covid non si inerpicherà mai così in alto. Questo lo posso fino capire. A venire a rompermi i coglioni qui. Questo lo posso capire. Plaza, allora, Terme di Abano. Ecco, benissimo, marchetta solida. Ecco, da parte di Gottardo. Tutto, non c'è dubbio. Il nome dell'albergo. E partiamo tutto fatto. Con il primo protagonista della giornata che ha il nome appunto di Crisanti. Ora io dico, ragazzi, mi tocco che le ha azzeccate tutte, tocco, ma aspetta, mi tocco a pelle, mi tocco a pelle con le mani dentro, proprio a pelle in questo momento. Perché Crisanti ha detto oggi che nell'ordine delle cose un lockdown natalizio. Ma che ci sarebbe di male? Scusa, ma è purtroppo ci sarebbe di male. Ma lo decide lui. Cioè, sarebbe un dramma per l'economia di sto paese. Ma io mi tocco a pelle. Ma se i morti se dovessero salire i contagi, David, e i morti. Ma perché io devo avere dei ministri? E allora faccio Crisanti monarca d'Italia, esatto. Siamo a posto. Dai, ma non è neanche con il re Crisanti. Ma lui ha espresso un'opinione, poi sta la politica. Ma come fai? Mancano due mesi nell'ordine delle cose un lockdown natalizio. Continuano a salire, se l'indice RT continua a salire, se mia nonna avesse fatto, dai, se dovessero, beh, sono saliti negli ultimi giorni. Se, dai. Speriamo a questo punto che non dovremo fare altrettanto noi con un lockdown magari selettivo durante le feste di Natale, che le nostre sono in quel periodo. Infatti, io penso che questo è nell'ordine delle cose. Quindi lei pensa che forse un lockdown in quel periodo potrebbe starci? Ma guardi, un lockdown in quel periodo potrebbe risettare il sistema, abbassare la trasmissione. Appunto. Risettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus, ovviamente, non la trasmissione ma televisiva. Ma se continuano a salire è ovvio, no? Ma che discorsi sono? Oddio, ma risettare il sistema. Degli ingenui, risettare il sistema. Ma cioè, in Svezia sono rincoglioniti. Sì. In Svezia sono rincoglioniti, sì. No? Ma hanno appena chiuso. In Germania stanno per chiudere, ma lo vedi in Europa cosa succede o no? Ma vedi, solo perché in Israele c'è il lockdown, allora tu sei contento se lo facciamo anche in Italia. No, ma io non sono contento per nulla, perché purtroppo guadagnerò di meno, perché sono libero professionista. Ma Repubblica Ceca e Olanda sono quasi in lockdown totale. Avrebbero Repubblica Ceca e Olanda. Il calcio, senti Crisanti, avrebbero dovuto proibire, esatto. Ma cosa c'entra? Le cose inutili vanno inutili. Proibite. La scuola è utile, va tenuta aperta coglioni. Fino all'ultimo. Il calcio va chiuso. Ma fai perdere dei soldi a tutti. Ma vai a cagare. Inutile. Ma guardi, il calcio tra amici e il calcio dilettantistico, secondo me, è un compromesso per in qualche modo accontentare degli interessi economici, perché chiaramente fare il calcetto tra amici non levi interessi economici, incominci a toccare il calcio tra dilettanti o preprofessionale. Allora, chiaramente esatto. A toccare interessi, quindi il razionale è tutto lì, guardi, non avrebbero dovuto proibire tutti. Vabbè. Sì, ma ho capito, chiaro, ma quelli che quelli che lui chiama interessi economici non è che sono cose nascoste fatte da banditi, no, certo, e da criminali, certo. È gente che dietro il calcio, per fare l'esempio del calcio, però, guadagna una barca di soldi. Sì, ma non scuola, so, il calcio sarà meglio tenere aperta la scuola. Ma cosa c'entra questa demagogia? Tra la scuola e il calcio. Sei un demagogo. Se uno sei dovesse oggi decidere e dire meglio tenere aperta la scuola o chiudere il calcio, tenere aperta, ridurre il rischio vuol dire tenere aperta la scuola. detto? E chiudere ciò che non serve. Ma che cazzo dici? Drammaticamente, drammaticamente. Posso aggiungere sommessamente che lo stipendio di Crisanti è pagato dalle tasse di quelle attività che lui vuole chiudere. Esatto. Se le chiude, esatto, se le chiude infinito, come lo stipendio di Crisanti non verrà più pagato dal dipendente pubblico. Con cosa cazzo lo paghi? No, se fai il lockdown selettivo, chiudiamo tutto. Le tasse, i pasticceri venderanno meno panettoni, pagano meno tasse, e però... anche Crisanti, e gli tagli lo stipendio anche a Crisanti. Allora, ma scusami, ragazzi, no, ma non sono dei capricciosi. No, no, fermo questi un attimo. Allora, il calcio paga, tanto per fare l'esempio di Crisanti, il calcio paga miliardi di tasse. Il calcio, certo, nel suo complesso. Soldi anche che servono pure Crisanti, a Crisanti, certo, per anche scappare. Lo stipendio. Dai, ho capito, ma sarà meglio tenere le scuole aperte per qualche mese che in coglioni, più. Coglioni con queste scuole aperte. Ma chi le paga le scuole? A casa, non rompessero i coglioni. Dai, come stessero a casa? Se tu non paghi più le tasse, va a puttane tutto il sistema, David. È che il dipendente pubblico questa cosa non la capisce. Il dipendente pubblico non lo capisce. Allora, Ferrero, presidente della Sampdoria, di Covid non si muore. Presidente della Sampdoria, mitico Viperetta. Ma che ne sai questo? Perché se facciamo così la malattia esiste, va rispettata, sì, ma oggi siamo a 100 milioni di passi avanti, che è una malattia che abbiamo capito che non si muore. Il tampone alcuni medici se li mettessero nel culo. Ma la malattia va rispettata, cosa vuol dire la malattia va rispettata? È pazzo. Io ieri sono arrivato in un albergo a fare una riunione con la Lega. Sì. Ha fatto il tampone! Gliel'hanno fatto il tampone, se siete stati controllati. Pure il giorno prima, ringraziando Dio, non ho niente. Molto bene. È una cosa fastidiosissima. Sì. Ti mettono questi seppi, come dicono la Roma. Nel naso. È dovuto, è dovuto. Che ogni tanto si mettessero da qualche altra parte, ecco, tutti questi scienziati che vanno a parlare e ognuno dice una cosa. Poi tra l'altro anche lui vorrebbe candidarsi al sindaco di Roma e vorrebbe... Parliamo del naso di Viperetta, tra le altre cose. Vorrebbe, non credo che sia il tampone il primo dei problemi. Vabbè, adesso che cazzo lo sai, questo qua è una cazzata che dici tu. No, così è, così. Dissociati, dissociati. Ma no, ma mi dissocio, che non cazzo. Non so a cosa si riferisca. Ma cosa non so, no, cazzo, così. Ma spiegate perché il naso. Che c'è raffreddore, allo stadio 15.000 persone vorrebbe Viperetta. Allo stadio 15.000 persone, che non è una cosa così sbagliata. In realtà, ma in America, dove tu pensi che ci sia l'inferno, vedo stati con 10.000 persone, 7.000 persone, perché in Italia no? Perché in Italia no? Al mio stadio, qui a Marassi, è lo stadio meraviglioso. Bello, ci vanno 45.000 persone. Ma se voi ne mettete 15.000, ma chi si accorge? Luciani, ho appena comprato il tuo libro da Feltrinelli. Che culattone che sei. La zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Dimenticavo, Parenzo, al netto di pubblicità, traffico e cagate varie, lavori soltanto 1 ora e 37 minuti. Vai a fare in culo. La giusta destinazione d'uso del libro di Giuseppe Cruciani qual è, se non questa? Ottimo! Per mandarlo dentro il cesso uno prima lo deve acquistare, però, caro Parenzo, solita tecnica, no? Certo, prima di mandarlo dentro il cesso, compratelo, che è anche poi... piuttosto grosso per mandarlo dentro il cesso, devo dire. Il tuo era piccolo, potevi anche spedirlo dentro il cesso e tirare la catena. Fatto, ma lo ringrazio per averlo comunque comprato. Allora, mi arriva una notizia sui soldi. Crisanti, anche Barcellona e la Catalogna chiudono bar e ristoranti. Crisanti anche dovrebbe, Barcellona e Catalogna. Crisanti dovrebbe ragionare un po' anche su questo. Le tasse del pallone che lui vorrebbe chiudere, le tasse del calcio. Per qualche periodo, fino a quando le non... tasse del calcio, lascia perdere, le tasse del calcio si avvicinano al miliardo più o meno, 600 milioni solamente dal monte ingaggi dei calciatori, poi ci sono i dirigenti. Contagi perché c'è il calcio. Non ho detto, ma non salgono allora, i contagi basta. Col calcio, non dire alcuni, cazzate. Se tu chiudi alcuni ma settori il riduci il rischio. Ma settori i contagi che? Non significano nulla. No, ma allora cosa, che per voi cosa si dovrebbe non fare? Non ha neanche i sintomi. Ma perché a Barcellona hanno chiuso bar e ristoranti allora? Ragionare sugli ospedali, ragioniamo sugli ospedali, è questo che bisogna fare. Perché Barcellona ha chiuso bar e ristoranti? Sono affari loro si erano gestiti male. Chi si saranno gestiti male, non lo so. Pazzo? La Germania è pazza. Non lo so, non lo so. Niente feste, non si fanno le feste, non si invita più nessuno, neanche a casa, non più di 6 persone. Io c'avevo qui la zia Concetta, la zia Mariuccia, l'ho dovuta mandare via una torta, la festicciola, non so cosa farne di questa torta. Le regole si rispettano, ma quando le regole ti dicono cosa devi fare tu a casa tua, quando addirittura ti minacciano di mandarti la polizia a casa a controllare cosa fare, io sai cosa ti dico, Donato, sai di questa torta, lo sai cosa ne faccio, lo sai cosa ne faccio, io Donato ne faccio... Cosa fa? Lo lancia, ha lanciato la torta contro le telecamere. L'ho tirata loro. Le cose medie se gliele farei pagare però. Grande Giordano che tira la torta contro le telecamere, perché giustamente attacca il governo, attacca il governo perché ci rompi i coglioni sul numero di persone che devono stare dentro casa, dunque non si possono organizzare le feste con più di 4-5, che volevi dire? Pazienza. Che c'è? Giordano fa una vita talmente di merda che per lui la festa è la zia Concetta e la zia Mariuccia. Ma non ce l'hai un amico, non ce l'hai un amico, Mario Giordano, che cazzo, la zia Concetta, la zia Mariuccia, e che festa di merda è? Se deve essere una festa così voglio stare a casa da solo, dai. Allora ragazzi, la notizia di oggi è il Napoli se la dovrebbe prendere a questo punto con l'ASL. Con l'ASL di Napoli è il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica. Siamo tutti Juventus Napoli 3-0 e -1 in classifica. E cosa dice adesso l'ASL? Poi sarà rivisto, per carità, resterà solamente il -1, eccetera. Ma io non sono contento per questo, Non sono contento perché io non sono mai contento quando una partita viene a tavolino godi, per 3-0. Non godi, non godo. Non godi per il Napoli. No, non godo. Assolutamente. Tu che sei gobbo nell'anima, no, ma non gobbo godi, nell'anima, no. Lo dice a tua sorella. Certo. Io non godo. Beh, io non ho bandiere della Juventus a casa e mi risulta che tu abbia la bandiera. Non godo, io non godo assolutamente, non godo nella maniera più assoluta per un 3-0 a tavolino, perché a me piace giocare le partite in generale, piace vedere il calcio giocato. Però amico mio, rivolgetevi all'ASL di Napoli, non è che l'ASL di Napoli può rompere il cazzo alle regole che già ci sono, che sono quelle per cui il Napoli doveva prendere l'aeruccio e doveva andare a Torino a giocare una partita di pallone. Non si sono presentati, e 3-0 a tavolino e -1, poi per carità sarà rivisto, sarà quello che volete, eccetera eccetera, però si attaccano. Si attanoma il Napoli, l'ASL soprattutto, lascia perdere il Napoli, l'ASL di Napoli è autogol dell'ASL, si sono fregati tra di loro dell'ASL. Si sono fregati tra di loro. Cacciari ragazzi, un mito, una leggenda, il professor Massimo Cacciari sui controlli, sulle feste, sulle norme. Senti, i controlli, tutti a dire i controlli, ma chiunque giri per le nostre stazioni, per le nostre strade, sa l'assurdità di certi controlli e l'inesistenza di altri. Giusto. Mentre in certi posti i controlli sarebbero necessari per evitare gli assembramenti, che sono certamente pericolosi, in altri sono di un'assurdità totale. Ma scusi, ma insomma, ma è possibile? Ma sono stufo, basta! Basta con questo delirio normativistico assurdo! Ma questo delirio, con questo controllismo fuori senso, ma scusi, che dicono cose semplici, razionali, applicabili, controllabili, comprensibili, perché sono un animale razionale. Questo è il motivo forse per cui dicono con 5 persone sì, con 6 no, con 7 ma chi lo controlla? Ma che senso c'ha una norma non controllabile? Chi mi può venire a controllare in casa se sono in 5, in 6, in 7 o in 8? Quindi lei dice è inutile farla una norma così? Ma certo, si dice siete persone ragionevoli, non fate assembramenti, non fate festini in casa, non fate tè danzanti in casa, non fate assembramenti sui navigli, non fate, e poi i dati me li vogliono dare in modo scientifico, no, anche questi scienziati? Se ci sono 1000 morti all'anno di broncopolmonite, non sarà mica uguale che ci sono 1000 morti all'anno di tumore? Se ci sono 1000 morti all'anno sotto i 20 anni, non sarà mica uguale che sono sopra i 100? Certo. Quanti sono? Chi sono sti morti? Che patologie avevano questi che muoiono oggi? I contagiati, che senso ha i contagiati? Se prima c'erano 100 tamponi e 10 contagiati, adesso che ci sono 10.000 tamponi, è ovvio che ci sono in rapporto più contagiati. Chi sono questi contagiati? Quanti sono gli asintomatici tra i contagiati? È molto, cioè, tuttardiano. Dice le cose, dice le cose che diciamo, sì, noi, sì. E sembra Parenzo, certo. Poi, e sembra Parenzo quando fa Cacciari, ma che dite, sembra Parenzo quando fa Cacciari, Non avete capito niente, niente. Allora gli asintomatici, fate una confusione, gli asintomatici positivi e allora il tampone, ma che roba è? Ma io adesso voglio parlare della critica della ragion pura di Kant. Ma che la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me. Dai che non sapete niente. No, quello è la freccia, Antonio da Verona, vai Antonio, dimmi. Crocs. Dimmi. Ma con chi si è arrabbiato? Con nessuno lì. No, con nessuno, con se Crocs. Stesso. Col governo. Basta, basta. Sembra Giannino, sembrava Antonio, dimmi. Dai, un po' di rispetto, è mezz'ora che aspetto. Dai, non rompere allora, i coglioni. Crocs. Dai, ti volevo dire, il discorso che adesso ti entrano gli sbirri in casa, no? Per controllare, ma non entra nessuno, entra nessuno in casa. No, ma lo so. È però qualcuno, già il fatto che qualcuno ne abbia parlato, l'abbia ipotizzato, e addirittura il Presidente del Consiglio con quest'aria paternalistica abbia detto, beh, noi non vogliamo mandare la polizia a casa di nessuno, già questo qua mi sta sui coglioni. Esatto. No, ti volevo dire, io in casa mia posso organizzare anche un'orgia con 10 persone, saranno cazzi miei se voglio organizzare un'orgia con 10 persone dentro casa? O devo chiedere il permesso a Parenzo? Non metto a rischio nessuno, non rompere i coglioni. Non metto a rischio la salute di nessuno. Se io vivessi nel tuo palazzo ti denunzierei molto semplice. Cioè io adesso voglio organizzare un'orgia con 10 persone. Sarò padrone oppure deve esserci Conte che mi dice la tua vita ma e la quella mia... delle altre persone. Ma chi le altre persone? Non dire cazzate. Tu adesso vieteresti queste cose qua. Cioè le orge le vieteresti. È ovvio che non puoi. Antonio, che volevi dire? Io già abitualmente non faccio, quindi non consumo. Antonio, dimmi. Ragazzi, sì, fammi parlare, Crocs. Non devi dire un cazzo, non hai nulla da dire. No, ti sto dicendo, se fai l'orgia invitami. Ti stavo dicendo il discorso che diceva Parenzo, che in Italia per fare le perquisizioni serve il mandato, è una cosa solamente che vedi in televisione, Crucia. Ma che fai? Perché l'avvocato adesso? Ma chi se ne frega? No, che cosa volevi l'avvocato. Dire? Che sei preoccupato dagli sbirri in casa? Non ti preoccupare, non verranno. Diego da Savona, non rompere i coglioni. Diego da Savona, vai, forza, veloce. Allora, saluti. Saluti. A me stanno veramente sui coglioni i fascisti. I fascisti ti stanno sui coglioni? Vabbè, d'accordo, sì. Questo insomma, di per sé non è una cosa concordo negativa. Concordo con Feltri che l'unico ebreo fascista è Parenzo. Questa è una vecchia idea feltriana, non so ancora se ci creda a questa senza cosa, però l'ha detto. Ombra di dubbio. Il dottor Giuseppe Capasso, che è una persona molto molto per bene, che vuole, ma non vuoi rispondere grandi, a questa Diego di da Savona, locali a Roma. Me ne sbatto i coglioni. Mi ha appena mandato un report caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV. Il mitico Giuseppe Capasso. Un report dettagliatissimo. Ma chi se ne frega? Caratteristiche. Ma devi essere un liberale tu. Ma cosa c'entra cioè, liberale? Sono tutti antifascisti e liberali. Ma chi se ne ma frega di Capasso? Cioè continuare a tenere questo atteggiamento da fascisti. Aspetta, vedi, Diego, questi poi dati ti, poi qua ti interessanti richiamo. Dicono ad esempio che l'età media dei pazienti mettiti nel buco del culo questi dati, fermo deceduti là, fermo. Positivi a Sunbind. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. La Zanzara. Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ho fatto vedere Giuseppe Cruciani in webcam a mia moglie tedesca, ha subito detto: ma questo si lava poco. Senti a quanto mi state sui coglioni quando leccate il culo a Sgarbi, mamma mia! Cioè, Sgarbi è una macchietta giusta per il vostro programma, tipo, non so, Pappalardo, tipo la Martani, tipo il coglione che beve il piscio, cioè è a quel livello lì. E farebbe ridere se non fosse che è un cazzo di parlamentare della Repubblica e lo devo pagare anch'io. Quindi voi che gli leccate il culo a un cretino coglione così che continua a sparare cazzate e sta in Parlamento super pagato con i nostri soldi, siete delle merde, ok? Siete delle merde. Andate a fare in culo, tutte e due, va? Eccolo! Allora, potete dire a quel pezzo di merda di Sgarbi che qua a Roma non siamo rincoglioniti come a Sutri? Qua prenderà lo 0.1%, che è pronto a fare sta bella figura di merda, sto stronzo. Noi non vogliamo essere presi in giro, io mi informo, leggo tante cose riguardo al Covid in questo periodo, perché allora comunque incide anche purtroppo sulla mia attività lavorativa. Io sono una partita IVA, sono una cantante e faccio serate, e in questo Martani, momento sì, il mio lavoro è completamente azzerato. La Martani che fa la cantante giustamente protesta perché il lavoro è azzerato. Fa la cantante. Fa la cantante. Ho come l'impressione che il lavoro della Martani sia azzerato non a causa del Covid, ma a causa della Martani. Molto lucido. A proposito, non darei tutte le colpe al Covid. A proposito del collegamento prima dell'interruzione, come al solito di 20 minuti. Fa la cantante. Fa la cantante. Adesso parlo da solo. Sai quei vecchi che parlano da soli, borbottano, quelli che borbottano fanno con l'autobus. Fa la cantante. Questa è la cantante. Io faccio la cantante. Il fisico quantistico invece. Non canta male la Martani. No, non canta male. Comunque, è sempre ragazzi, meglio di quando parla. Voi scherzate. Ma alla fine ha ragione Gottardo. Cioè, alla fine ha ragione Gottardone. Non è possibile. No, 36.000 morti. Età media 82 anni. Ah, stai leggendo il report. E tre gravi patologie. Stai leggendo il report che ha mandato anche a te quello che hai denigrato prima. Sì, lo metti. L'ottimo di Giuseppe Capasso. Mettitelo nel buco del culo. Tu i dati, tu mettiti nel buco del culo. Io invece li cito quando mi pare. Comunque è vero, cioè è vero. Allora, i dati dicono un'altra cosa. No, i dati dicono questo: che i morti sono così. I morti, la media dei morti è questa qua. La figura 2 mostra il numero dei decessi per fascia di età. Media è 82 anni e tre gravi patologie. Non rompere i coglioni. Dai. Dovreste chiedermi tutti scusa. No, io no, perché non t'ho mai attaccato. No, in quindi, generale, va gli bene, ascoltatori quindi, siamo, i coglioni. Quindi, sì. Siamo, quindi è una malattia. Attenzione, una semplice influenza. Parla la capo. Attenzione, parla la capo. Oh. Sentiamo che novità da dire alla capo. Virologa dei polli. Attenzione, sentiamo la capo. Certo. Sentiamo che ha da dire la capo. Senti. Quello che mi dispiace dovervi dire anche stasera è che questo virus è qui e dobbiamo continuare a farci i conti. Certo. Far finta che non esiste è pericoloso. Cioè, quello che fa col giallo. Stiamo vedendo che il cosa è successo nei paesi che hanno fatto finta che il virus fosse un'invenzione. Ah, dunque, il virus è qui e dobbiamo farci i conti. Sì, la pagano, Questo virus ci farà ancora paura per 4-5 anni. Senti questa. Ancora toccata a pelle. Addirittura. Mano dentro, toccata proprio a pieni coglioni. Come i giocatori durante gli anni 80. A pieni coglioni. Sì, doppia mano. Dobbiamo veramente allacciarci la mascherina e gli strumenti che conosciamo per arrivare di là, cioè quando questo virus ci farà molta meno paura. E questo avverrà. Noi non avremo a che fare con un virus che continuerà ad essere così violento da qui a diciamo 4-5 anni. Insomma, cambiamo virus, noi e cambia anche la pandemia. La storia ci insegna questo. A casa mia riceviamo una coppia a settimana, ci sediamo sparsi, anche questo sti grandissimi cazzi se uno vuole quello andare, che uno dovrebbe fare, no? Riceviamo una, ma uno fa quello che vuole, non ricevere, no, quello riceviamo che vuole. Una coppia a settimana a casa mia, porca la gran puttana! No, allora, purtroppo bisogna ridurre la vita sociale. Appunto, è normale questo, purtroppo. Ricevere poche persone. Le dico quello che faccio io. Noi vediamo una coppia a settimana, entrano con la mascherina, vengono a casa a cena, abbiamo un tavolo grande distanziato, ci sediamo non sul tavolo ma sparsi, ma evita. E si va avanti così. Ma evita, non invitare nessuno, non evitare normale che sia così. Ma non evitare, ma non invitare nessuno. Voi fate cene, voi partecipate a cene in questo momento? Io stasera vado a una cena in un ristorante, punto. Ma in un ristorante con quante persone? 4-5, cioè 4-5 persone. Dove? Ma non lo so, mi coprirò, starò un po' distante, starò attento. Allora dillo che stai distante, stai attento e ti copri. Sì, ma certo, mica non sono... fare il mascalzone. Ma perché chi sei fa il mascalzone? Un mascalzone? Ma chi cazzo l'ha detto che non fa? Lasci intendere che tu fai una vita normale, fai la vita come tutti noi, con la differenza che gli altri vanno al ristorante e pagano e tu non paghi un cazzo. Sì, ma Davide, questa è l'unica ma differenza Davide, fondamentale. Ma ti verrebbe voglia di andare a cena dalla capo che ti dice: sai caro, per altri 4-5 anni faremo questa vita di merda, ma sto a casa, mi faccio un delivery, spero non vado a casa della capo per rompermi i coglioni. Questo non lo so, cena, capo dai. Abita negli Stati Uniti, ci andrei volentieri a trovarla e a ragionare con lei del futuro del Covid. Le feste casalinghe purtroppo andrebbero evitate, andrebbero. Così come anche i raduni che prevedono il riavvicinamento di parenti per un breve periodo, che però vengono da molto lontano perché arrivano persone con stati sanitari diversi. Non si è capito un cazzo, vabbè. Non si è capito una classica sega. Jack da Rimini, vai Jack. Ciao, io sono Jack, il vero leccatore da 3 generazioni. Cioè, sono un leccatore di figa professionista. Beh, questo è ottimo, questo è molto buono. Non ho capito. Professionista, viene pagato? Esistono i professionisti di leccaggio della figa, secondo te? Eh certo, io sono l'unico leccatore di figa da 3 generazioni. Sì, ma come si capita? Scusami, di esperienza. Scusami, amico mio. Però come si fa a avere il timbro di leccatore di figa? Così te lo sei inventato da solo? Ah, io ho i protocolli, ragazzo mio. Come i protocolli? I protocolli sono quelli del Covid. I leccatori sono tutti dei spatolatori, fanno l'intonaco. Non è vero, c'è quelli che vanno di punta. No, però aspetta, stai tranquillo. Qual è il protocolli che hai? Che protocolli hai? Ah, inizia con il picchiettamento rotatorio, leccare con tranquillità e soprattutto sensibilità per capire la donna. A me piacciono quelle anorgasmiche che non vengono. Cazzo, quelle quando le faccio venire mi prendono la testa, me la metto lì, chiudo all'avvocato per staccarla, ragazzi. Sì, però io vorrei capire più che la tecnica, che spesso è comune, questo. Non è molto diversa, diciamo, da persona a persona. No, ti correggo, sbagli, perché io lecco la figa da 36 anni. Ma l'ho cambiata sempre. Cioè, e non ho capito adesso. Ma uno può chiamare non ho capito, Jack. Tu sei sposato? Aspetta, anni, sei sposato, Jack? Certo. E tua moglie adesso? Mia moglie dice che devo chiedere 500 euro ogni leccata. Addirittura, cioè, è tua moglie stessa che ti dà, diciamo, questo timbro di professionista del leccaggio di figa, del cunilingus? È certo. Ho iniziato a 14 anni che lì ero il vero chiamatore. Io a 14 anni la figa non la leccavo, devo dire la verità. A 14 anni non leccavo la figa. Io a 14 anni ero il vero chiamatore, poi ho iniziato a leccare la figa da 16 anni in poi. Ma negli ultimi 30 anni, ragazzi, le anorgasmiche erano tutte mie, perché loro venivano da me proprio come terapia. Come terapia. Fino a quando ti sei sposato o anche dopo? Io da 14 anni a 30 anni mi sono tolto tutto quello che ho detto, gli orge, di tutto. Poi ragazzi, io sono di Rimini, ogni sera si chiamava una diversa. Come che c'entra? Romagnolo di Rimini si chiama. Ho capito, ma quello non è che si chiama in tutto il mondo, non è che solo a Rimini si chiama. Comunque andiamo avanti. No, te di dove sei? Se non viene Rimini non è che... Non... Ma non ti preoccupare, che mia figlia è nata a Rimini, conosco Rimini molto bene. Senti, allora ho capito. Allora Jack, non hai capito. Allora sei arrivato al punto di arrivare a che cosa? Voglio aprire una società terapeutica per leccare la figa. Ho già pagina Facebook pronta. Ho capito, ma tua moglie non sarà d'accordo su questa roba qua? No, ne ho già parlato, è d'accordissimo, perché io volevo partire con 300 euro ogni orgasmo. Lei ha detto, te sei uno da 500, cioè, minimo. No, tua moglie ti farebbe leccare la figa? Ti farebbe leccare altra figa? Eh sì, vuole la metà però. Sì, no, ma io vedo, a parte, sì, non so se sia uno scherzo o no, però poi mi farai parlare nei prossimi giorni, mi farai parlare con tua moglie. Però la cosa fondamentale, me lo devi promettere però, perché altrimenti siamo nel campo delle cazzate. Allora, tua moglie viene a parlarci e mi dice effettivamente che tu, come tu lecchi la mia moglie che viene a parlare, magari quando inizia a incassare i soldi. No. Però io voglio dire una cosa, Jack, cioè io non, per carità, non voglio disconoscere. Non voglio disconoscere le tue capacità. Ma la mia è una passione, ragazzi. Sì, ma perché lo devi raccontare in modo volgare alla radio a milioni di persone? Quale volgare? Lo sta raccontando in maniera normale. Non sono volgare. Sei un esibizionista e basta. Sei un triste esibizionista. Ascolta, questa è una terapia. Tutte le anorgasmiche del pianeta verranno da me, arriveranno tutte da me. Ancora questa storia. Interessante questa cosa. No, ma adesso al di là dello studio. Tutti i leccatori certificati da me. Questo non è male, però. L'albo dei leccatori di figa per le anorgasmiche. È una terapia. Ragazzi, ma nel 1840, nel 1850, veniva data la leccata di figa come terapia fino al 1899. Ma dove l'hai letto? Ma cosa vuol dire? È tutto su internet. Quando inventarono il vibratore. È storia. Eri esaurita, non ti chiamava il marito, ti chiamava, te sentivi l'orgasmo, il dottore ti diceva vai in farmacia e compra il vibratore. Poi nel 1922 invece è stato buttato lì in porto, e purtroppo il vibratore era un simbolo fallico, non più così da portare di tutti come terapia. Comunque, vabbè, tu vuoi fare questa, diciamo, questa associazione, questo albo, l'albo dei leccatori. Il 18 esco, lunedì 19 esco, e vediamo un po' chi è che si segna. Le prime 10 hanno la leccata gratis. Ciao amico mio, ciao. È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it. La Zanzara. Parenzo, io molte volte sono in disaccordo con te, ma lo scontro di ieri con quel pirla di dottore è stato bellissimo, sei stato bravissimo. Anzi, secondo me dovevi affondare di più il coltello nella piaga, perché quello è proprio un coglione da combattere. Adesso se la gente non fa festa o non esce a far serata sembra che crepa. Ma fatevi una scopata e non rompeteci i coglioni. Qui hanno tutti paura per un nuovo lockdown. Per me lockdown è barattolo pieno di erba e Pornhub premium gratis. Ciao, stronzi! Allora ragazzi, un paio di cosette prima di tornare a parlare con voi. C'è Francesco da Matera, non lo faccio più questo elenco da un po' di tempo, Marco da Palermo, Massimo da Roma e altri stronzi che hanno chiamato. Fabrizio però, da Milano, no? Che dici? Fabrizio da Milano non chiama. Ma che cazzo ne so, quando vuole chiamare chiama. Ho capito, anche a me manca. Anche a me manca. A te non ti manca nulla. Il fantasma di Fabrizio da Milano non ce l'hai addosso. Poveraggio. La scimmia di Francesco da Milano. Ma un bambino degli alieni, un mezzo mamma, un sciroccato porello anche lui. Ma perché? Scusa, gli hai dato del drogato, del tossico dipendente. Ma no, lui lo dice, si è fatto di questo, si è sparato quella. Lui lo dice. Si sfondava la nasca. Appunto, Fabrizio, dove sei? Torna. Però, a parte questo, volevo farvi sentire Sgarbi di ieri sera, perché ha detto delle cose sul sesso, a mio parere, fondamentali, come al solito, quando parla di certe cose, scolpisce nella pietra alcuni principi. Innanzitutto dice di essere un rapace nel sesso, di consumare tutto in 20 minuti. Partiamo con Sgarbi, con le sue confessioni sessuali ieri sera qui in questa disgraziata trasmissione. Il mio metodo è identico a quello dei vecchi omosessuali, quelli che scopavano al cinema, facevano pompini nei cessi, non era amore, era sesso senza amore, esatto, che esiste, mi diversifica l'apparenza, ed è come dire rapinoso. Un sesso rapinoso, identico a quello dei vecchi omosessuali. Per vecchi lui intende non dei vecchi a livello anagrafico, degli omosessuali di un tempo, degli anni 60, degli anni 50, forse anche degli anni 70. Dell'epoca Pasolini. Esatto, quando andavano nascosti nei cinema a farsi spompini pompinare o a ricevere, vabbè, dei pompini, a fare quello che, vabbè, quello che sappiamo, dire le cose, è la realtà, così. Perché non ti piace la realtà? Vai, ancora, vai con Sgarbi. Fondamentalmente, tu in questo modo rapace un po', diciamo, estemporaneo, non scopi mai, diciamola sì, chiaramente. Ma è irrilevante. Cioè, sì, ma non dire, c'è mai penetrazione, non c'è nel 90%. No, dei... la mia teoria è che quello che importa in un rapporto con una donna è il punto di cedimento. Sì, questo vuol dire che tu vai a una festa, sì, ci sono, c'erano 200 persone, sì, e trovi 4-5 disponibili, non puoi, sì, portare tutti a letto, no, vai dietro un angolo, sì, inserisci la falange del dito medio, sì, nell'organo sessuale di, sì, lei, sì, quella è, come dire, è registrata. Cioè lui dice questo, alla fine... quello che conta è il punto di cedimento, cioè c'è arrivare, cioè, arriva, no, sì, ma attenzione, dice punto di cedimento, non cominciate a usare altre parole, punto di cedimento, cioè quando sei in quella situazione lì, quando sei riuscito a mettere un dito nella figa sostanzialmente e a sentire quell'umore là, mamma mia, a quel punto, a quel punto non c'è manco più bisogno di scopare. Cioè non c'è più bisogno, beh, di scopare, no, cioè tu l'hai registrata come disponibile. Sì, posso, ma lui, dissentire, ma no, ma non puoi dissentire dalla, mamma, filosofia, mia, cioè, mia, questa, sì, non, certo, puoi dissentire, perché non è un concetto talmente astratto, preferisco che non puoi dissentire. Ma va bene, ma lui infatti non, ma lui non lo esclude, infatti, ma non lo esclude. Non lo esclude, dice semplicemente che a un certo punto la conquista, io dico solo mamma mia, arriva quando siamo al punto di cedimento. Il punto di cedimento c'è quando tu infili la falange, tac, ancora, incontri il bagnato. Questa è la realtà. Parlo con tutti voi che ci state ascoltando, ditemi quante volte vi è successo. Quando mettete dentro là capite, mamma, che c'è, mia, la disponibilità, mia, forse anche, mamma, prima, però in quel, mia, momento c'è il punto di cedimento. Ma ragazzi, questo è Sgarbi, mica lo dico io, dai. C'è bisogno di aver l'atto sessuale compiuto. Parlo di una forma, come dire, di seduzione che prevede, quindi, il cedimento, il, esatto, punto di cedimento, sì, della, basta. Cioè il punto di cedimento è quando tu infili, riesci ad infilare la punta, almeno la punta del dito medio, certo, nella vagina, diciamo, di quella persona. Vuol dire che lei sarebbe disponibile. Cioè, capisci qual è la grande, no, diciamo, il grande concetto che c'è dietro questo. Tu registri la disponibilità mia, no, per, ma la prima, no, volta in vita mia, perché non hai capito bene, sono in disaccordo con Sgarbi. C'è, che c'è altro successo o no, oppure ci sono i robot, cioè, certo, io capisco, vai, io capisco che poi, però alla mia età non, mi, non mi, a me la falange non basta, dai. La modalità tua è questa qua, che la penetrazione è irrilevante. Irrilevante. E diciamo la verità, non c'è quasi mai alla fine. Cioè non, no, c'è... ma questo, come vuol dire, puoi avere dei rapporti, so, sai, con la donna un mese, vabbè, tre giorni, sì, però, cinque giorni. Nel momento, ma se fai una cosa di queste sotto i 20 minuti, come ho detto, sì, che è il limite in cui Sabrina non registra il fatto, sì, è chiaro che stai lavorando, come dire, in maniera molto artigianale. Non registra il fatto. Certo, non registra il fatto. Cosa dire, non registra, no, il fatto. È una cosa sotto i 20 minuti, però in quei 20 minuti puoi fare tanto. Poi ha parlato del protocollo Sabrina Colle, che è Sabrina Colle, per chi non lo sapesse, la fidanzata. È come l'app Immuni, sotto i 20 minuti non registra il contatto. Può è essere, fantastica, sì, questa cosa qua. Allora, Massimo da Roma, vai. Vai, Massimo, dimmi. Massimo. Maggioranza silenziosa, David. Dimmi. David, amico tuo Cruciani, che conduce la trasmissione, sono 2-3 giorni che sta a condurre la trasmissione in maniera irresponsabile. Sì, e perché sarei irresponsabile, Massimo? È arrivato il fenomeno, Massimo da Roma è arrivato, il fenomeno, Massimo da Roma. Allora Giuseppe, tu devi capire che fai opinione quotidianamente, sei sentito da un sacco di persone, sì, ma il 90% di quelli che ti ascoltano, allora, manca di capacità di discernimento. Ma chi te l'ha, quindi, detto? Ma che hai fatto un sondaggio? Magna... Ma che dici? Sei pazzo? Quindi se gli dici da mangiare il pecorino con la merda, la gente si mangia il pecorino con la merda. Tu stai a legittimare le feste casalinghe con 8-10-12 persone. Io non sto legittimando un cazzo. Non cominciare a dire che stai marcia indietro. No. Marcia indietro. Massimo, io non sto facendo nessuna marcia indietro. Io sto dicendo semplicemente che è, come ha detto Cacciari, che approvare dei decreti, dei provvedimenti, chiamateli come volete, in cui c'è un numero di persone, là 6 persone come limite alle persone che io posso portare in casa, è una cazzata. Io posso anche organizzare una cena con 10-15 persone. Ma quando cosa cambierà opinione? Male, speriamo che non accada, sarà il primo, sei, a frignare, ma che sei, l'uccello e a cambiare opinione, come hai fatto durante il lockdown, come hai fatto durante il lockdown. Massimo, allora non ho capito, ma chi le faceva, allora, le feste prima che non si poteva andare a casa di nessuno per legge? Che cazzo dici, Massimo? Incredibile, dimmi. Adesso, allora, dici tutti tranquilli, sciallati. Una valutazione oggettiva, io ecco, ho il negozio, sono un artigiano, sì, e ho paura perché non ho la verità in tasca, che probabilmente se i contagi risalgono a novembre, a dicembre, ascoltalo, a casa aperti 40 e questo giorni. Non è un dipendente come te, è un artigiano, okay. È una partita IVA. Se io vedo che ci sta nel condominio mio uno stronzo che fa una festa dei 20-25 giorni, qual è la mia unica arma se non la dilazione? Ma devi andare a semplicemente a fare in culo. Se ma vai... che cazzo, tu sei devi andare a fare in culo, io non denuncio nessuno, ma che è la festa di 20 persone? Ma come, ma tu fai tutta la morte per paure dei economici, ma che ne sai? Nel lavoro invece di rivedere. Ma che è sto ragionamento? Ma non ho capito. No, 20... guarda, ma dove li vedi? Semplicemente sputtanato in diretta. Ma che sputtanato? Hai detto una cosa? Sì, detto... Sì, sì. Ma io ho detto che la penso in modo diverso, che hai sputtanato mio nonno, hai sputtanato. Pace all'anima sua. Tutto lockdown, muovi tranquillamente a lavorare. Io 70 giorni a casa. E che vuoi da me? Mi dispiace moltissimo. Ti hanno distrutto. Ma io mi sto a cagare sotto, che me vanno richiude, e se c'ho un'arma che può funzionare. Che fai? Denunciare i vicini perché fanno una festa? Ma vai a fare in culo, ma vai. Ma vai a denunciare tuo nonno, vai a denunciare. Tu hai una tu manchi di capacità di discernimento, sei pericoloso. Senti, tu Massimo, Massimo, i miserabili che ti chiamo, ti ho semplicemente sputtanato a livello grammaticale. Ma che sputtanato grammatica? Ma che dici? Ma cosa dici? Ma dici delle stronzate tremende. Bravissimo. Io ho detto tu fai un collegamento automatico tra se vabbè fa un collegamento automatico questo stronzo tra la festa in un condominio di 20-25 persone in una casa e i contagi e il suo lavoro che è una puttanata, è un vecchio sistema, una vecchia tecnica. Dice allora tu vuoi le feste, allora vuoi la distruzione del paese, vuoi morti per strada, vuoi morti negli ospedali, hai contribuito alla morte, ma vaffanculo. Marco da Palermo, dai Marco avanti. Marco da Palermo niente. Francesco da Matera dimmi che ha messo questo. Dimmi Francesco, togli sta musica del cazzo, dai, forza. Dai Francesco, dimmi. Niente, Federico da Milano, dai, veloce, vai, Federico da Milano. Ciao Giuseppe, io volevo dire che siccome sono giovane me ne sbatto completamente delle norme anti-Covid e tutto quanto. Questo non va bene, che vuol dire me ne sbatto delle norme? Quanti anni hai? Che giro con, senza la mascherina per strada, che stanotte farò anche una festa con almeno 20 persone ma nel mio appartamento qua a Milano. Ma non dire stupidaggini. Sì. Che sei un coniglio, hai chiamato solo per coniglio? Avere un po' di ma figurati, non farai niente, sei un povero sfigato. Il coniglio sei tu, Parenzo, ma che ti pare che uno chiama politica, ma ti pare che uno chiama per dire io non porto politica la maschera per strada se la faccio una festa? È un coglione uno che dice una roba così, non è uno intelligente, ascolta, uno che sfida. Guarda che oggi se un mi arriva tizio il coronavirus mi arriva un raffreddore al massimo, che cazzo me ne frega, a te sono un vecchio e a quelli merda, che ti capito? Stanno intorno e a quelli che ti stanno intorno e se infetti solo, i tuoi genitori, i tuoi nonni dalle... i miei nonni, i miei genitori stanno a casa loro, io sto a casa mia assieme alla mia fidanzata oppure assieme ai miei amici, hanno la mia stessa età, se arriva il coronavirus mi prende al massimo e un raffreddore. E se infetti i tuoi insegnanti? Ma che insegnanti che sto facendo? No, senti, Federico, non sento un cazzo. Quanti anni hai? Non ho capito bene. Quanti anni hai che non ho capito? 22. Ah, 22 anni. Che fai nella vita? Studio filosofia. Studi quindi filosofia. Se vai all'università, infetti l'università. Ma i non tuoi colleghi d'università. Lo vuoi capire o no? Non ci vai. Metti bravo bene sto telefono, però, Federico. Cioè, farei pure filosofia. Ma no, non quindi hai messo vivi bene un cazzo. A spese dei tuoi genitori, in casa con la fidanzata, ti fai i cazzi tuoi. Non ti curi degli altri e studi pure filosofia. Invita delle persone, qual è il problema? Invita delle persone in casa sua. Ma saranno cazzi suoi, invita delle persone questa sera. Non ti curi della polis, cioè della città. Ma perché me ne dovrei curare? Spiegamelo. Cioè sei un benefreghista. Io sono a casa mia, non do fastidio a nessuno se stasera arrivano 20 persone. Cioè non hai relazioni con nessuno tu, non hai certo, la tua vita con persone della mia età. È solo a casa tua. Adesso questo non lo puoi sapere perché entri dentro un posto, se dici che non porti la mascherina magari sei asintomatico e potresti infettare qualcuno. Vai in però un locale, vai al supermercato a comprare, a parte che non ti fanno entrare senza mascherina, quindi figurati, non c'è il problema. Sì, ho capito, ma se arrivano delle persone, cioè è inutile che fai il pirlotto età, perché che se tu serve? Vai in un, ma è inutile che fai il pirla perché quando entri in un supermercato per comprare le tue birre di pessima marca da regalare ai tuoi fannulloni stasera, ai tuoi amici stasera, ai tuoi nulla facenti di stasera, quando vai al supermercato a comprare la birra 0,90 la signorina del supermercato che lavora a differenza tua e si fa il culo e non vuole ammalarsi per colpa di uno stronzetto che studia filosofia a 22 anni ti dice brutto stronzo ti metti la mascherina se non entri in questo locale, capito? Questo è questo stupido che alle 19:46 chiama la radio annunciando la sua festa Federico, con le birre a 0,90. Hai capito o no? Federico, hai capito o no? Cosa devo capire? Niente, che sei un coglione, ciao, ciao. Allora ragazzi, nella giornata di oggi è apparso un video di un signore, persone diciamo comuni, non VIPs, un signore di un paesino della Liguria che fa il barbiere. È uno che va senza mascherina e si è fatto multare apposta. Si chiama Agresta, credo, di cognome. Credo, credo. Sono Piero qui, sono la mia prima multa perché non avevo la mascherina, sono andato dai carabinieri che dovevo andarci. E giustamente sono andato senza mascherina perché non c'è una beata minchia, c'è la pandemia degli asintomatici. E quindi sono andato senza. Mi sono voluto io, mi sono voluto fare una bella multa perché adesso faremo un bel esposto contro i carabinieri, contro Conte, contro il governo, contro chiunque abbia firmato questo decreto legge. Penso che dovreste prendere un po' tutti esempio, cacciare quella merda di mascherina e iniziarsi a ribellare. Iniziamoci tutti a ribellare, perché o iniziamo a ribellarci ce la ficcano nel culo, anche se già ce l'hanno messa. Io lo chiamerei questo strozzo, che dici? Cioè, lo chiamerei, direi di no. No, direi no, io lo chiamerei, assolutamente lo chiamerei. Vai, io vai. Direi di no. Numero, vai. Pronto? Sì, parlo con Luca? Sono io. Buonasera, qui Radio 24, ho visto il tuo video. Sì, mi dica. Beh, tu ti sei fatto multare apposta, amico mio, o sbaglio? Mi sono fatto multare apposta, dovevo andare dai carabinieri perché per delle cose mie, dovevo dirgli delle cose. E ieri l'ho incontrato, lui mi ha detto di venire alle 9:30, io ci ho detto comunque vengo senza mascherina, fa, ma no dai, mettitela. Allora io gli ho detto, fai una bella cosa, tu preparami già la multa che io... Domani vengo, mi faccio fare la multa e domani gli do tutta l'avvocato, ti faccio un bel esposto a voi, a Conte, a chi ha fermato il decreto, tutti qua. Ma non ho capito, perché se hai fatto apposta? Cioè, perché l'hai fatto apposta a farti multare? Perché poi lo conosco, mi dice, non me l'avrebbe fatta, capisci la multa. Ma invece te l'ha fatta? E certo che me l'ha fatta. Ha fatto bene? Ma quanto t'ha fatto? 400 euro? Quanto t'ha fatto? 400 euro. Ma non ho capito, perché uno si deve fare multare? Che cazzo ti frega? Vai con la mascherina e basta, no? No, ma perché mi devo sottomettere alla mascherina se non serve un cazzo? Bene, sì, saluti e baci, paga la multa e taci. Mi sembra ottimo, bravo, anche intelligente questo. Ma no, dice che vuole fare ricorso. Bravissimo, faccia ricorso. Tanto intanto paga 400 euro, farà ricorso, poi verrà bocciato il ricorso. Poi vedremo se lo pagheremo. Sì, ma bravo Pirla, ma scusa, intanto paga. Ma chi ti ha detto che non serve la mascherina? Spiegami. Ma perché? Ma tu, come chi me l'ha detto? Perché serve? C'è un'emergenza sanitaria, ci sono morti. Sì, c'è un'emergenza sanitaria. Morti, sì, ci sono, certo. C'è un'emergenza sanitaria. E per te non ci sono morti, non ho capito. No, i morti ci sono stati, allora, i morti ci sono stati a marzo, quando impedivano di fare le autopsie, ok? Impedivano di fare le autopsie, quindi non si sapeva la causa della morte. Impedivano di avere l'uso di determinati medicinali, hanno screditato il plasma, hanno messo i degenti nelle case di riposo. Dunque, tutto un complotto, secondo me. Tutto? Come l'hanno fatto? Hanno buttato tutti dentro al calderone, chi qualsiasi morto, anche se facevi un incidente, eri positivo, eri morto per coronavirus, ma tu in questo momento, tu che mi chiami, tu che fai tanto lo spiritoso, che sono Pirla io, testa di cazzo, spiegami un attimino. No, calma. Un malato, tu dimmi, conosci un malato senza patologie pregresse di Covid in questo momento? Sì, malato grave, tu lo conosci? Sì, tu lo conosci? Certo che sì. Certo che sì, Pirla. Certo che sì, Pirla. Intanto non ti preoccupare, paga la multa e non rompere i coglioni, poi fai il tuo ricorso, tutto quello che ti vale. Intanto hai preso la multa, per fortuna. Scusami, e sono contento capire, che te l'hanno scusami, data. Scusami, caro Zizza, come ti chiami? Mi pare di capire che tu sei un negazionista assoluto, cioè per te un'influenza e basta. No, io non sono un negazionista, io sono un realista, perché vedo la realtà. E dunque che vedi? Che vedi? Il negazionista l'hai messo tu, l'avete messo voi questo titolo per scrivere la gente che ancora usa il cervello. Scusa, non ho capito, per te una semplice influenza e basta, ci stanno pigliando per il culo. A che scopo ci stanno pigliando per il culo? Spiegami. Io non lo so il loro scopo. Ma qual è lo scopo? Qual è lo scopo? C'è un sacco di scopi. Ma perché scopi? Ci sarebbe sta roba? Non ho capito, ma dove le hai sentite queste cose qua? Che c'è qualcuno dietro? Ti sei informato da solo? Dove ti sei informato? Sull'internet? Ma tu invece chi te l'ha detto che c'è una pandemia, che stiamo morendo tutti? Ma tu conosci? Ma chi ha detto? In tutto il mondo? Ma la pandemia c'è in tutto il mondo, Pirla, che non sei altro. In tutto il mondo c'è. Pirla, ci sei tu, tanto per cominciare, inizia a parlare come si deve. No, calma. Ma non so come chiamarti, cioè mi sembra evidente che sei un Pirla, ma basta che leggi i giornali, ma anche ma quelli stranieri, se mai. Leggiti i giornali americani, somaro d'un somaro, ma richiamalo, maleducato, che chiudo il telefono in faccia. Richiama subito, dai. Mamma mia. down, I want a whole lot of rhythm. Gotta do a little kicking. If you can't, then just go home. And don't look back, man. I'm in for the long haul. Don't need no phone call. I'm gonna do my thing. Let's do this thing. Check it out while I rip it up. You think you got a duck? Suck it up when it's rough. Do you know when to go for blood? You gotta really take a bigger stand. You gotta. Oh, allora, innanzitutto non si butta il telefono in faccia, ma in che chiaro? Modo? Non si butta. Ma guarda che sei tu che mi manchi di rispetto dicendo pirla pirla. Ma pirla, pirla che pirla è un modo di dire, pirla, cioè. No, a me è un modo di dire che a casa mia è un insulto. Ma amico mio, ma sei andato insultato nessuno. Per cominciare non siamo amici. Ma di dove sei tu? Di dove sei tu? Abbiamo mangiato assieme, ma di dove sei? Non ho capito, di dove sei? Non ti preoccupare, tu di dove sei? Di quale paese sei? Di quale località sei? Tu di quale località sei? Io noi siamo a Milano, tu dove sei? Ecco, io sono qua in Liguria. In Liguria, benissimo. Io voglio capire una cosa, andare in giro senza mascherina, qualcuno lo considera un mezzo crimine perché può infettare gli altri. Ma invece costringere la gente a andare in giro mascherato quando è in giro da solo non è un crimine. Non è un crimine. Ma tu sei andato dai carabinieri, sei entrato dentro i carabinieri, amico mio. Dai, tu su. Non ti preoccupare, tu non ti preoccupare. Comunque, secondo te i numeri. Ero da solo. Secondo te i numeri. Va bene. Circondato da vetri blindati. Dunque, secondo te si sono inventati dei numeri questi qua? Cioè, il governo, eccetera, si inventano dei numeri. Sono? Gonfiano dei numeri. Scusa, ma allora. Se dillo non come la pensi, senza paura. No, senza paura. Se non ci fosse niente da nascondere, perché dovrebbero mettere tutti morti per e con coronavirus? Dimmi. Perché? Invece secondo perché? Te, invece secondo te no, nessuno è morto solo per il coronavirus, questa è la tua teoria. Nessuno è morto solo per il coronavirus se non, no, se non aveva altre patologie progresse. David, di qualcosa, David, di qualcosa. No, io dico solo, una cosa. Questo somaro qua, questo, ma non voglio. Fammi parlare. Cosa? Il coronavirus è il COVID, è uno, fa parte della famiglia dei coronavirus. Sì, lo so. Partono con un semplice mal di gola e possono finire una polmonite. E se sei vecchio o non la trascuri, ci sono dei giovani che sono morti. Ci sono dei giovani. Il primo malato di COVID era un atleta. Il primo malato di COVID era un atleta sanissimo. È sempre un coronavirus. Quanti dal mal di gola arrivano a tromboembolia? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Per tromboembolia basta fare l'eparina, hai capito? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro questo? Non c'è dietro nessuno. Beh, ci sono qualcuno. Io che ti sto parlando. Interessi economici, chi c'è dietro? Interessi economici, chi c'è? La Cina che ha aumentato il PIL del 40% negli ultimi del 40. Mesi. Eh? Del 40. Vai a vederti il report di domenica. Vai a vederti del 40% negli ultimi mesi. Più 40. Più 40. Più 40. Più 40%. Giornalisti terroristi. Giornalisti terroristi. Dati da report. Quindi la Cina. La Cina ha fatto tutto. Giornalisti terroristi. Giornalisti terroristi. Giornalisti terroristi. Giornalisti terroristi. Vi dovreste vergognare. Ma di chi? Complici, ma complici di che cosa? Complici di che? Tipo quello di Fanpage. Perché non hai intervistato a me? Che non ti ho sbagliato una domanda. È andato a Roma a intervistare il negazionista. Ha fatto un montaggio di. Beh, l'hanno insultato. L'hanno mezzo linciato. E grazie al cazzo che viene, che passiamo tutti da coglioni. L'hanno insultato. Allora, senti, genio, spiegaci dai, tu. Dai, come mai? Dai. E nel resto del mondo comunque, che succede? Oh, ragazzi, come mai ragazzi, negli Stati Uniti? Anch'io. Cioè come ma che cosa lavori tu? Ma quale io lavori tu? Dire, ma cosa lasciare, lavori ragazzi, tu? Ma, che la, ma io non mi, farei, non mi farei tagliare neanche i peli del culo da te. Ma io pensa da te, te. Non mi guardo, neanche i peli del culo da te. Neppure quello. Somaro d'un somaro. Eh? Adesso arriva il barbiere e ci spiega il COVID. Ma che cazzo di mondo è? Ma che razza di mondo è? Arriva il barbiere e ci spiega che la pandemia non esiste. Ma ti spiego il COVID. Ma perché me lo spieghi tu che sei giornalista? Sei laureato, tu sei imbecille, incredibile, sei incredibile, sei arrivi qua a spiegarci il COVID. Ciao, ma vai coglione. Ma non dire cazzate. Pure col barbiere, pure col barbiere, pure col barbiere. Io davvero pure devo chiedere barbiere. Scusa, devo chiedere scusa, mi dispiace veramente. Ma cosa, mi fai andare cosa? Ai matti. Francesco tu da Matera, mi fai vai. Andare ai matti con sta gente. Perché non vuoi qua? Discutere col barbiere? Perché non vuoi discutere ma col barbiere? Ma io discuto con tutti, ma se questo nega la pericolosità del virus, ma di cosa stiamo parlando? Francesco sulla base Matera, di che dai. Cosa mi devo discutere con questo qua? Ma non perché è un barbiere, può essere anche parlare. Un notaio. Dimmi, avete dimmi. Finito. Dimmi, dimmi. Luciani, volevo dirti la prima cosa: tu sei il più grande cesso d'Italia. Sì, perché è vero. Se noi siamo stronzi che ti chiamiamo, tu ci raccogli tutti dentro di te, che sei una merda. E poi sei il manutengolo di quel pezzo di merda di Scarpi. È arrivato il fenomeno manutengolo. Francesco da Matera. Te lo dico io, sei un povero imbecille. Che vuole imparare sei a Roma, un che povero vuole... imbecille. Ma tu sei un pezzo di merda, è solo capace di abbassare il volume del mio e alzare il tuo. Sì. Coglione di merda. No, veramente ti sto lasciando parlare, sto lasciando parlare pure un cretino come te, figuriamoci. Cosa volete imparare a Roma, quel miserabile di Scarpa, ad evadere le tasse, vuole togliere le autopelo. Che cosa vuole fare? E qual è il problema? Non ho capito. È un indegno, perché il problema è che è una persona senza dignità. In Sicilia si voleva candidare con l'opposizione che stava con Musumeci, pur di avere le mani in pasta. E ma poi perché uno non si può candidare a sindaco di Roma? Non ho capito. Si può candidare chiunque, ma l'importante è che deve avere un po' di dignità. Cosa deve fare? Ma che ne sai tu della dignità? Ma che ne sai tu della dignità? Ma chissà che vita fai tu? Che dignità hai tu? Che vita fai? Che vita fai? Che fai? Qual è la tua dignità? La dignità la posso vendere a te e a quel Ma figuriamoci. Ma figuriamoci. Se tu eri più intelligente di quello, non li facevi chiamare. Ma sarai un mezzo. Le cose che è stato condannato, invece di promettere. Sarai un mezzo criminale. Sarai quello lì, un mezzo criminale. Non so criminale, però se ti spaccherei i denti. Ma senza che spacchi i denti, tutta chiacchiere. Non mi hai fatto parlare, non mi fai dire le cose contro quel pezzo di cosa vuoi. Aspetta, aspetta un attimo. Fermo. La Zanzara. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Ciao Cruciani, ma perché ce l'hai con chi è ancora vergine? Perché te la sei presa con Anna da Brescia che ha 30 anni e ancora vergine? Anch'io ho 30 anni e sono vergine, qual è il problema? Cioè tu vorresti un'Italia dove tutti a 18 anni devono essere sverginati? Cioè tu porteresti tutti a 18 anni ai bordelli, sia uomini che donne? No. Ma lasciaci vivere, se non vogliamo scopare, lasciaci non scopare. Vorrei lanciare una petizione tramite il vostro canale per far subire al signor Diego Fusaro la doppia penetrazione anale, la stessa che subirà la signora Slave a Milano. È possibile? Caricato il nuovo DPCM, l'ho letto ed è veramente una follia. Ma io, caro Conte, ti volevo dire questa cosa e te lo dico pubblicamente perché spero che qualcuno di questi nostri amici politici in comune che abbiamo ti possano far vedere questo video, che io non ho paura a dirti che sei un incapace, un abusivo e un fituso. Ho strappato l'Inps oggi, ho strappato l'Inps. Tutti questi aggettivi che voi usate, le persone neanche riescono a capire dove le supposte ce le state mettendo, dove, quale pillola prenderci. Perché nel momento in cui uno che ha un locale deve chiudere a mezzanotte e sono quelle 2 ore in più che comunque a lui fanno, certo, a fine mese deve pagare lo stesso le tasse. Ma che cazzo ne sai tu, Davide? Che cazzo ne sai della vita di queste persone qua? La Clementi, quella dell'INPS, ha ragione. Ragiona più di te. Ma cosa vuol dire? Ragiona più di te la Clementi dell'INPS. Perché è una libera professionista, sta sulla strada, deve arrabattarsi ogni giorno. Non ha lo stipendio sicuro come te. Non ha i contratti blindati come te. Non ho nessun contratto. Sì, hai i contratti blindati. Ma come perché ti permetti? La radio continua, io la televisione continua. Non è un contratto blindato con nessuno che deve chiudere. Se mi volete cacciare, mi possono cacciare in ogni momento. Ma di che stiamo parlando? Quali contratti blindati? Francesco. Sei assunto a tempo indeterminato con la qualifica di inviato. Sì, l'hai già detto. Pur non di essendo dimosso da Roma da Francesco, 10 vai, anni. Francesco, da Milano, da 10 anni. Da 20, anzi. Francesco, inviato. Dimmi. Ma inviato allora, di chi? Che cazzo chi vuoi? È che ti ha dato quella qualifica? Il nome sì, quello. E mandalo il fare in culo, voglio Francesco, chiedere alla Confindustria nome e cognome di quella persona che ti ha messo quella qualifica di inviato. Hai ragione. Voglio il nome. Però se non gli abbassi il volume, come cazzo ci parla? Lo so, mandalo a fare in culo così almeno sta zitto, dai, su. Io ti ho mandato a fare in culo a te e a Ma tu purtroppo rovini. Ho mandato pure a fare in culo a Parenzo che si mette a parlare come un filosofo del cazzo che sta portando a quell'altro che si lamenta sempre. Volevo dirti una cosa, beh, se tu mi vuoi fare delle lezioni di dignità, se una persona pubblici sta mangiando no, con tu i soldi non hai che noi dignità, paghiamo le tasse, tu non hai dignità, tu sì, non hai dignità, te la posso dimostrare, tu io non la hai dignità, a differenza tua e di quell'altro coglione di Scarpa, io te la posso dignità, il compagno che è negro là, che diceva la cosa, te lo diceva a te. Perché se Cruciani, se tu avessi un po' di dignità, non difendevi quella merda di persona lì. Ma quale di merda? Ma devi illustrargli, le scarpe. Guidava, ma chi? Guidava con la targa bulgara, con la mignotta in macchina per non pagare le multe. Ma devi illustrargli le scarpe. Vai a illustrargli le scarpe. Se non avesse dignità, che toglieva, si toglieva la mezza al Parlamento, che lo pago anch'io a quel pezzo di merda. Devi dire che le cose erano diverse, no? Che cazzo sta ma comandando? Non dire cosa cazzate, ma sei un poveretto. Sei un poveretto, sei io sono un poveretto, sei semplicemente un poveretto. Sei. Tu sei una merda che c'hai dovresti inchinarti e pulire le scarpe a sgarbi, massaggiare i piedi. Si dovrebbe inclinare e farmi un pompino quando io sono seduto a guidare e a lavorare. Ma sì, ma che fai il camionista tu? Fai il camionista? Faccio il camionista, distruggi, me ne vado a mangiare da Marco a Pescara Nord. Hai distrutto Marco Pescara Nord. Marco Pescara Nord, c'è il ristorante Autogrill. Sì, è bello, sì, Marco Pescara Nord. Ti fai fare una pompa da una puttana, no? Ti fai fare una pompa da una puttana, se c'è. Lì fece il sindaco di come cazzo si chiama, Pescara Nord, lì di Montesilvano, che cosa fece? Fece la petizione per cacciare le mignotte e sono rimasti solo i tram. E come funzionano queste leggi qua? Fanno le petizioni, ma non ho capito, ma tu vai regolarmente a puttana a trans e ti fai fare i pompini? Non o no? Ci vado regolarmente, però adesso che vado a mangiare, se trovo una bella mignotta, un pezzo di giga, sono capace pure che gli do 30 euro, non è che mi preoccupo più di tanto. Pure, ordinandosi 30 euro. Perché qua è problema, non è che mi portano alla rovina a 30 euro. Non ho capito, Gottardo, qual è il problema di dare 30 euro a una puttana per farsi fare una pompa? Magari, non ho capito. Ti prendi l'alfabeto delle epatiti per se una accetta 30 euro, dai, è cammino che non fare l'ignorante, non fare l'ignorante, Gottardi. O se come tu non fare l'ignorante? Come te lo dico io, perché dai, se tu sei in zona Cerignola e Foggia le paghi 20 euro, se arrivi a Pescara le paghi 30. Ragazzi, se il mercato, però, in questo non posso dare torto a Francesco in questo, anche capito, se mi ha insultato in questo. Dilli che è un miserabile, Gottardo, abbi il coraggio di attaccare Francesco la Matera invece di stare lì rimbollito su quel cazzo di letto. Entra in battaglia con Francesco, dì che è un miserabile, uno sfruttatore invece di stare a farsi le seghe. Io sono sfruttatore da operaio, faccio io quando porto una persona a lavorare in campagna da me, lo pago con i soldi. Fermo, perché questo lo porta a lavorare in campagna e lo paga con i soldi, quindi certo, è nero. Porta qualcuno, quindi, qualche amico che mi viene ad aiutare facendo il camionista, non sto tutta la settimana, il sabato, la domenica, in nero. Gli do 50 euro, 100 euro, quello che si merita. Quello che si merita, no. E lo decide lei quello che ma si merita. Ma non ho capito, merita. Ma non mentre ti fanno la puttana 30 euro. A differenza tua, lo concordiamo. Ma non ho capito, non ho capito, Gottardo, perché non ti fa impressione uno che paga 30 euro da una puttana a Pescara Nord per farsi fare una pompa? Mi fa impressione, intanto la puttana che va col camionista, mi dispiace. Qualche night dove le paga 100. Guardi, ho pagato molte cene, allora, ammetto di aver pagato molte cene. Dappertutto, l'importante è che sto stando. Mo forse che dimagri. Ciao Francesco, ciao. Allora ragazzi, nei giorni scorsi c'è qualcuno che ha formato un governo di emergenza nazionale, di salvezza nazionale, sì. Un governo di salvezza nazionale, in cui il Presidente del Consiglio, chi era di questo governo di salvezza nazionale? Non mi ricordo chi era, Fiore, chi era questo? Cioè, chi era il Presidente del Consiglio di questo governo? Fiore, mi pare, no, sì. No, Fiore di Forza Nuova, forse no. Insomma, il Ministro degli Interni di questo governo, in cui c'era Taormina alla giustizia. Ah, certo, era Santa, Sant'Agata. Vabbè, ma sti cazzi, un governo di tutti i negazionisti, di quelli che sono andati in piazza sabato, c'era Taormina alla giustizia e poi il ministro dell'interno, il nostro amico Sinagra, il professor Sinagra. Sinagra. Professor Sinagra. Ma è un avvocato, ma Sinatra, sì, no? Ma sì, l'avvocato, un professore, eccetera. È stato l'avvocato di Gelli anche, sì, Sinagra. Sentiamo, no? Chiamiamo. Proviamo. Pronto? Gli avvocato? Sì. Sono Cruciani, buonasera, mi scusi se la disturbo. Dio mi aiuti. No, per carità, Cruciani, Radio 24. Sì. Come sta innanzitutto? Come sta? Ma insomma abbastanza bene, insomma non sono contagioso. Meno male. Stavo dormendo. Questo è importante, no? Questo è importante. Volevo capire, questa cosa che lei sarebbe una specie di ministro ombra di questo governo. Ministro. Sì. Ministro ombra. Sì, così, ministro ombra. Guardi, avverto subito. No, per carità, sì. non alziamo. Già una volta vi ho mandato a fanculo. Sì. Vero? Ne ho tanti di vaffanculo. No, cerchiamo di non solo per capire, allora bisogna chiamarla ministro, quindi ministro ombra, d'accordo. Allora andate a fare in culo tutti e due. Ma perché? No, ma guardi, l'avverto che se io adesso chiudo, se lei mi richiama, no, ma ci spieghi, ma siamo calmi. Una denuncia per molestie. Ma siamo calmi, fare in culo. Ma perché? Ancora? Ma siamo calmissimi. Ma perché siamo calmi? Ministro! Ministro! Sempre tu sei. Prova a chiamare un attimo di nuovo adesso. No. Proviamo un attimo. Di nuovo. Si diventa ministro davvero. Scappo Svizzera a piedi da Roma. Ministro a piedi dell'interno. Matteo dalla provincia di non c'è più. Francesca da Roma, vai. Francesca, dimmi. Buonasera. Dimmi Francesca, dimmi. Ma voglio capire, perché dobbiamo mettere la mascherina all'aperto? Ancora. Perché dobbiamo mettere la mascherina all'aperto? Perché se c'è tanta gente. Ha ragione Francesca, questa. La mascherina all'aperto è una puttanata, non ha torto Francesca. La mascherina all'aperto è una puttanata quando non sei nella vicinanza. Non sono negazionista, però mi sembra esagerato. No, ma ha ragione Francesca, dai. Mi sembra chiaro che se sei in una landa deserta e stai passeggiando da solo alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, sì, vabbè, non serve. Perfetto, se invece perfetto. Sei in una strada affollata, che può essere via del Corso, via del Tritone, via della Spiga, via Monte Napoleone, dove cavolo vi pare a voi, via le Venezia, quello che vuoi, quartiere Prati, esattamente, dove ti conviene tu? Come si chiamava quella via dove abiti tu, che non mi ricordo più, Pippi calze lunghe, ti conviene metterti la mascherina, tutto qua. Vabbè, tutto ciao qua. Francesco, ciao. Allora ragazzi, sentenza Juve-Napoli, già l'abbiamo detto, no? Sentenza Juve-Napoli. Tra l'altro pare, cosa incredibile, che il Napoli avesse deciso prima della decisione della ASL di non partire per Torino, tra le cose che ha detto il giudice sportivo. Ma ti rendi conto? 3-0 a tavolino. Signora Rita, te la ricordi la signora Rita, grande tifosa napoletana, quella che fa impazza ogni tanto sul web contro la Juventus? Sì. Chiamiamo? Pronto? Chi è? Rita? Chi è? Oh, 3-0, Chi è? 3-0 a tavolino e meno 1. 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. Chi è? Oh, amica mia, 3-0 per la Juve a tavolino e meno 1 in classifica. Ma E questo è. Questo è successo. 3-0 a tavolino, il giudice sportivo. 3-0 per la Juventus. Ricadere 3-0 a tavolino e meno 1 in classifica, capito? 3-0 e meno 1, capito? 3-0 e meno 1, perché non siete partiti ad andare a giocare la partita a Torino. 3-0 e meno 1, non siete partiti, capito? Perché non siete partiti? Perché non siete partiti? Perché non siete partiti per andare a Torino a fare la partita? Perché? Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Crux, ho parlato alla mia compagna della storia della spermicidina e l'ho vista molto entusiasta. Stamattina ci siamo svegliati e niente, solito alza bandiera e iniziamo, e lei mi fa: però poi me lo dai l'integratore mattutino? Beh, amico mio! Allora, ci sono molte persone che ci hanno chiamato nei giorni scorsi dopo l'intervento della nostra nutrizionista Samantha Biale, tra cui una persona, una donna che, come avete sentito la settimana scorsa, ha cominciato a fare dei pompini con l'ingoio al marito. Ragazzi, ha cominciato a fare dei pompini con l'ingoio al marito. Ma perché dobbiamo parlare per forza del coprifuoco che è stato decretato, per esempio, a Parigi dalle 9 alle 6 di mattina? Ma di che devi parlare? Ma chi se ne frega? Il coprifuoco, meno ma male, chi se ne frega? Ma che palle! In Francia, a Parigi, l'hai negato. Nella regione di Parigi, all'inizio. Non l'ho negato. Ho detto che l'avrebbero potuto fare e lo hanno fatto. Visto che hanno nel resto d'Europa lo stanno facendo, purtroppo. Noi non dobbiamo arrivare a quei numeri là, ti sto dicendo. Ma ci arriveremo, e quindi cerchiamo di prevenire. A fare il culo. Allora, diverse persone ci hanno chiamato. Ho visto la Samantha, la dottoressa Biale. Sì, ho visto, sì. È veramente una bella donna proprio. Cioè, io ho visto. Sì, è un po', diciamo. Come si direbbe in tecnico, ha una sua consistenza. Ma ho verificato, diciamo. Sì, hai guardato subito le tette, cosa hai guardato? Lo sguardo, anche quest'occhio, quest'occhio scuro, questo capello così riccio, mi pare. Comunque, mosso, abbiamo avuto vari riscontri. Dottoressa, no, per nulla. Dico che una dottoressa è interessante, mi sembra tutto qua. Ma di nuovo, questa signora cosa aveva iniziato a fare i pompini con l'ingoio? Ha detto che stavamo parlando di spermidina. La spermidina è una sostanza che è in diversi alimenti. Poi, naturalmente, è anche nello sperma dell'uomo. E dunque diversi ascoltatori ci hanno chiamato dicendo: beh, insomma, proviamo. Cioè, ho convinto mia moglie a fare i pompini con l'ingoio. La colpevole di tutto è questa signora che è qui tra noi anche questa sera. Dov'è? Che si chiama Samantha, eccola qui tra noi. Ma cosa ho combinato? Mamma mia, dai, forza. Però anche tu ci metti il carico da 11, però Crux, normale che c'è David. Mamma mia, cosa bisognava fare? Scusami, tu hai detto una cosa molto interessante: che la spermidina aiuta la memoria delle persone. Ti mantiene giovane, eccetera. Poi parlate di parmigiano, di broccoli, tu subito. Parmigiano, subito broccoli, ho capito, però in grande quantità è contenuta nello sperma, c'è poco da fare. Dunque, più ingoio dalla stessa persona, magari, ma anche da altre persone, a seconda delle proprie preferenze sessuali. Più ingoio, più memoria, più il cervello va bene. Davide, ma è così, c'è poco da fare. Ma io la nutrizionista che parla di sesso, adesso mi viene a parlare così, romagnolo. Scusami, è una specie di gradisca questa Samantha Biale. Non ho capito bene una cosa. Tu, per esempio, questa cosa qui la pratichi o no? Cioè, l'interferenza. Non ti sei No, ma voglio dire, dovresti essere. No, ma le donne si dividono in due categorie. Cioè, posso dirti? No, ma tra le altre cose, le donne si dividono in due categorie: chi ingoia e chi non ingoia. Diciamo la verità. Tra le tante cose, ci sono due differenze fondamentali: chi ingoia e chi non ingoia. Appartiene la prima o la seconda? Non devi esprimerti in maniera chiara. Chi ingoia la prima categoria 1, chi non ingoia categoria 2, a che categoria appartieni? Non lo saprete mai. Voglio parlare dell'effetto sedano. Ragazzi, cos'è il sedano? L'effetto sedano. Allora, in molti mi chiedono: no, dottoressa, ma ci sono veramente degli alimenti afrodisiaci? Il sedano. Allora, per molti sono leggenda, no? Per esempio l'ostrica, per la forma che non so poi cosa. Invece, che cos'è che non è leggenda? Il sedano. Dovete sapere che tantissimi studi lo hanno scoperto. Il sedano contiene un particolare feromone. Voi sapete cosa sono i feromoni? Che contiene? I feromoni sono quelle sostanze che noi secerniamo per dare dei messaggi all'altro sesso, esistono anche negli animali. Allora, questo feromone si chiama androsterone. Un uomo che mangia sedano, quindi effetto, deve mangiare un uomo. Che cosa fa? Cosa fa il sedano? Dopo 20 minuti, 2 ore dal consumo. Una cosa è 20 minuti, una cosa è 2 ore. E diciamo che prolungato, dai 20 minuti alle 2 ore. Allora, sedano devi mangiare, però. Insomma, un gambo di sedano, cioè un pezzettino piccolo, crudo. Mangi il sedano e che succede? Praticamente questo feromone, che è l'androsterone, conferisce alla pelle dell'uomo un odore particolarmente eccitante per le donne. Ma che cazzata è? Ma è una puttanata inaudita, ma ho letto da qualche parte di questo sedano, ma è una stronzata, è la stronzata delle nutrizioniste. Cioè, il sedano fa arrapare le donne, un uomo che mangia il sedano. Vediamo. Mangiare sedano prima di un incontro a due, poi mi dai. Che cazzo dici? Ma funziona solo se gli metti, come dice Sgarbi, se gli metti una mano la lascia perdere, non mi fare parlare, dai. Davide, su. Mangio finocchio. Pronto, David? Cioè, non, no, io guarda, io se, dottoressa, se, perché do lei a dottoressa, ovviamente seguirò il consiglio della dottoressa Biale e mangerò, mi sembra anche un bel consiglio dal punto di vista sia della dieta, perché no, non vuoi veramente cominciare a mangiare sedano per questo tu. Vorresti cominciare a mangiare sedano per questo, per far arrabbiare Natania, ma no, perché poi non c'ho motivo, insomma, sono vivo una relazione stabile, quindi posso anche non mangiare sedano. Però, non è che la relazione stabile sia per forza, anzi, al contrario, la tomba del sesso. La relazione stabile, la tomba del sesso. Ma quale tomba? Ma è la tomba del sesso. Ma non c'è solo l'androsterone nel sedano, ci sono stati altri studi. Il sedano contiene anche degli ormoni steroidei che si chiamano delta 16. E che cazzo servono? Stimolano l'attività delle ghiandole sessuali. Quindi anche quelli, è sempre, guarda caso. Cioè, ci stai dicendo che se l'uomo, mangia sedano, ti ricordi, Gottardo, tu che sei un grande consumatore di porno, di fumetti o di riviste anche degli anni 90, il tromba Super Sex, i Fixed Chen, te lo ricordi? Che non so quando lui veniva o prima, ma aveva una specie di fluido, i Fixed Chen, che era Gabriel Pontello, in cui praticamente con un fluido riusciva a scoparsi tutte le donne, praticamente le guardava, come no. E praticamente la dottoressa Biale, che sta dicendo secondo me una enorme minchiata, dice che tu prendi il sedano e poi fai i Fixed Chen e ti scopi una. Ma dai, su, guardate già gli antichi romani, guarda la spermidina, sapevano, ma no, adesso basta con gli antichi romani, e dedicavano il sedano al dio Plutone, vabbè, che era il dio del sesso degli d'accordo, ma ragazzi, mi scrive questo mio cugino che è un grande manager di un'importante azienda, si chiama Gabriele, non dirò, sposato con un po' di figli, mi dice stasera subito sedano, già chiesto a casa, ha scritto questo. Ciao Samantha, ciao. Io vorrei chiamare Albino, però, ragazzi, Albino perché sarà incazzato sulla sentenza. Che figura di merda. Che figura di merda. Io stasera mi sento vicino ai napoletani, molto. Carlo? Sì. Mamma mia, che figura di merda. Che figura di merda che avete fatto. Che figura di merda. Ma perché? Poi cosa c'entra? È la prova provata che in Italia la giustizia viene applicata a giorni alterni. Oggi evidentemente era il giorno no, ma sicuramente il giorno sì ci sarà quando il Napoli presenterà appello. Vabbè, e ma questo va contro tutto e contro tutti. Che figura di merda. La farsa si è consumata. Ha ragione. Che figura di merda. Che figura di merda. Non vi siete presentati 3-0 a tavolino e meno uno. Che figura di merda. Questa è la figura di merda non di Napoli, dei napoletani, no, ma di una giustizia ingiusta, amico mio. Ma quale giustizia è giusta? Uno non si presenta a una partita di pallone e giustamente viene punito. Ma di che parliamo? Di forza maggiore. Ma che ma quale causa di forza maggiore? Avete due positivi. Non avevo dubbi sull'esito della farsa che si è consumata, ma no. Ricordati, questo è il primo tempo. Ma va bene, d'accordo, adesso i tempi supplementari. Dovete prendervela con quelli dell'ASL di Napoli. Hai visto che bel lavoretto che hanno fatto, che risultato che hanno fatto. Ma non potevano muoversi da lì, ve l'hanno messa in quel posto, sono stati loro a farvi sto scherzetto. Non è nato ancora quello che lo mette a quel posto ai napoletani, ancora deve nascere un domani, se nasce poi te lo faccio sapere. Al momento quello che lo che mette a quel figura posto di merda, che figura no, di merda, questa è cioccolata, non è merda, perché la farsa si è consumata. Ma quale farsa? Ma quale farsa? Ma non ho capito, la giustizia una volta se è favorevole a te va bene, se non è favorevole è un'ingiustizia, è no, il giudice che guarda, è il comprato, allora, Juventino. Non è così, ma Napoli vincerà tranquillamente in appello, amico mio. Ma non lo so, può darsi, ma chi se ne frega, intanto prendi sta cosa e porta a casa, uno non è che non si può. Porta a casa, questo è il primo tempo, Giuseppe, c'è il secondo tempo, i tempi supplementari. Che figura di merda, uno non si presenta alla partita, fa l'inferno appellandosi alla sicurezza. Il paese è dato ai poteri forti. questo è il paese piegato, inginocchiato ai poteri forti. Ma che c'entra piegato ai poteri forti? Allora non ho capito, se ti danno ragione, è la giustizia. Una sentenza che ci saremmo aspettati in maniera totalmente. Ma non ho capito perché è comprato il giudice Danieli, che è comprato, non ho capito. Non accettiamo perché le sentenze si accettano e non si discutono, così come il napoletano oggi accetta la sentenza. Spero che la Juventus 3-0 a tavolino, 3-0 a tavolino, che viene esposto allo stadio di Torino in maniera vergognosa, che la Juve togliesse quei due scudetti che non gli appartengono. Ma che c'entra questo? Anche quella è giustizia. Ma cosa c'entra, scusa, ma cosa c'entra questo? Quando li toglie questi due scudetti che non gli appartengono? Scusa, noi dobbiamo rispettare le sentenze. Rispettiamo le sentenze. La Juve tolga immediatamente dall'Allianz Stadium. Ma secondo me la Juventus dovrebbe rifiutare questo 3-0 a tavolino se fossero. Certo. Se fossero... No, ma che rifiutare? Quello gliela inciocchettate, è un regalo, i regali non si rifiutano. Ma questo, ripeto, è il primo tempo. Poi mamma sarà il secondo mia, tempo, mamma e mia. Poi tempo la realtà è questa, che figura di merda. Alla fine avete fatto questa tutto un can-can, la ASL, la Regione, De Luca, eccetera. E alla fine 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. 3-0 e meno 1. Chi commenta favorevolmente questa Ma presenza. No, favorevolmente, so solo che avete fatto una figura di merda, punto no, e basta. Chi commenta favorevolmente la Ma no, a me non me ne frega niente, io sono contro i 3-0 al tavolino. Io sono contro. Ma no. C'è ragione Alvino. C'è ragione Alvino. Alvino, è una persona molto attenta. No, io non sono a me mi fanno schifo i 3-0 al tavolino. Solo che avete rotto certo, mi fa schifo il 3-0 al tavolino, non c'è dubbio. Mi fa schifo. Certo, però ve la siete presa in quel posto perché avete fatto un casino con la ASL di Napoli, eccetera. Non è nato ancora quello capace di metterlo a quel posto ai napoletani. Ve lo siete messo in culo ancora. Da soli. Ma da soli ve lo siete messo in culo. Vi siete auto-inculati. Ma come no? Vallo a dire alla ASL di Napoli che ha bloccato tutto. Dai, sempre che sia stata solo l'ASL di Napoli. Sempre che sia stata solo l'ASL di Napoli. Sempre che siano stati vinceremo solo loro. Poi vuoi mettere in dubbio questo? Cosa vuol dire? Che vuol dire? Tu sai qualcosa che non vuoi dire? Se sai qualcosa denuncia, devi denunciarlo, vai a denunciare, che vuol dire non è stata secondo me una decisione totalmente autonoma. Siamo tutti napoletani, oggi come siamo tutti napoletani. Torino, che ha denunciato i giocatori della Juve che hanno lasciato la bolla, ma hai visto Cristiano Ronaldo che è tornato? Sì, è tornato dall'isolamento lì ed è tornato in Italia. Auguro a Cristiano Ronaldo di risolvere i suoi problemi di salute. Poi, se ci ma sono non ha nessun problema, sta fresco come una rosa, non c'ha un cazzo, non c'ha un cazzo, solo voi pensate che nessun giocatore è finito in ospedale, non dite cazzate, dai, su, basta. Ma che cazzo vuol dire questo? Ma che cazzo, perché il calciatore non sta a contatto con lo steward, non sta a contatto con l'ufficio stampa? Allora che vuol dire? E allora che facciamo? Blocchiamo tutto? Che fate? Giocate o no? Giocate o no? Domenica, sabato, quando è? Giocate o no? La dobbiamo giocare Juventus Napoli. Ma che Juventus Napoli? Senza Juventus Napoli questo vediamo. Bisogna che la Juve vinca sul campo sul campo che è più forte, la Juventus di Ronaldo, di Dybala, di Ramsey, di McKinney. Intanto prendi e porta a casa per il momento, amico mio. Ciao. Solo per il momento. Ciao. La Zanzara. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. 1, 2, 3, 4. Cruciani, negazionista del cazzo. I contagi in Lombardia sono in continuo aumento. Tra qualche giorno, come a marzo, comincerai a cagarti addosso, ti barricherai in casa e piagnucolerai che vorrai fare testamento. Ma vaffanculo, pirla! Stefano da Venezia, Stefano da Venezia, avanti tutta ragazzi, rush finale, siamo ancora qua, vivi e vegeti, quello sta sul lettone ormai assopito, quell'altro col golfino lì a Roma, mezzo malato. Finito di cenare, io appena finito di cenare, come l'ultima bresaola, bresaola e verdurina, vabbè, e poi culo, una ciotola di lamponi. Stefano, dimmi. La bresaola, dai. Olio e anche metti un po' giusto di... il microfono, no, no, di questi due strozzi. Bresaola. Stefano da Venezia, dai. Eccolo, dimmi, buonasera, dimmi. A tutti innanzitutto, dimmi. Un saluto particolare a Davide che viene sempre insultato da questi trogloditi che chiamano. Buonasera e grazie per aver chiamato, grazie a lei veramente. Vabbè, ciao, allora Davide, Stefano, allora... mi onora il suo saluto. Avevo chiamato per una cosa, ma mi sono sentito tutto il discorso dei pompini con ingoio, ingoio, mi avete confuso un po' le idee. Ma scusi, lei comunque... non pratica? Lei non pratica? Ma io pratico. E se pratica significa che, lei prediligerà una cosa oppure l'altra, avrà incontrato donne che lo fanno e donne che non lo fanno, è la realtà, è la vita, la realtà. Sì. Ma non è tanto quello, è il fatto del sedano che mi ha colpito, era una cosa che non sapevo, onestamente. Ma sì, ma è una cazzata. Mangi sedano e vediamo che succede, per me non succede un cazzo. Da domani dieta di sedano allora. Vabbè, allora Stefano dimmi. Ma io ho chiamato, guarda, veramente stavo ascoltando le cazzate che diceva il barbiere, che tra l'altro è andato dai carabinieri senza mascherina, veramente. Vabbè, sì, allora? Non commento la stupidità, ma in generale no, mi colpisce il fatto che siamo innanzitutto allergici tutti a regole, che poi penso che sia una cosa importante. E dunque niente, dunque in sostanza poi alla fine il discorso rilevante è che tutta questa gente che ha bocca e crede a tutte queste fake, le fake sono dappertutto, però le fake, anche l'informazione, anche l'informazione che fa terrore dicendo numero di morti senza dire i tamponi, numero di contagi senza dire il numero di tamponi, la stessa cosa. Francia, coprifuoco a Parigi e delle zone di massima allerta. E allora che c'è? Macron, virus pericoloso, bisogna reagire. Ciao Stefano. Già mi ha rotto i coglioni questo. Coprifuoco a Parigi da sabato, dalle 21 alle 6 di mattina. Poi non si così, esce. Se è così urgente, perché lo fanno da sabato? Non si capisce. Allora, è con noi una sessuologa, Rosa Maria Spina, che già conosciamo. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, signora Spina, partiamo subito da una cosa. Nei giorni scorsi una sua collega mi ha fatto molto incazzare. Ha detto, bisognerebbe fare sesso con la mascherina. Poi ha detto che i ragazzi devono stare attenti quando escono, pochi rapporti, rapporti non troppo, capito, non troppo ravvicinati, rapporti estemporanei vanno evitati. Lei che dice da questo punto di vista? Bisogna prendere le precauzioni oppure ce ne dobbiamo sbattere? Allora, diciamo che visto il periodo e viste le notizie discordanti che ci arrivano, un po' di attenzione non guasta mai. Però una volta che si sono prese le giuste precauzioni, poi comunque è anche giusto in qualche modo divertirsi e soddisfare un po' questo bisogno. Cioè, ricordiamo che è un bisogno primario. Esatto, ma lei in un bar, l'altro giorno l'abbiamo chiesto pure a Crepè, no? Cioè lei in un bar andrebbe a baciare uno sconosciuto in questo momento? Cioè lo farebbe oppure no? Io sinceramente, se mi piacesse qualcuno e andassi in un bar, bacerei qualcuno senza problemi. Non è che gli chiedo, hai fatto il test 2 giorni fa o l'hai fatto oggi o l'hai fatto 5 giorni fa, me ne sbatterei le palle. Io ho ragione così o no? Ma io non lo farei, ma nel senso che non lo avrei fatto in altre condizioni anche pre-COVID, quindi probabilmente ora non lo farei lo stesso. Però è anche vero che nulla vieta che, insomma, forse troppe restrizioni alla fine comunque fanno male, no? Fanno male ugualmente. Cioè, comunque, secondo te, non ho capito, secondo lei bisogna prendere, cioè, se uno, cioè, bisogna evitare i contatti con gli sconosciuti, sarebbe meglio evitare il sesso? No. Altrimenti finiamo in un estremo opposto. Bisogna solamente avere un po' di attenzione e prendere le precauzioni adeguate. Però sì, ho capito, però infatti la domanda tipo di contatto, incluso il bacio, mi sembra un po' eccessivo. No, ma la domanda è precisa. Fare sesso con delle persone che non hai mai conosciuto e incontri la prima volta può essere un pericolo? Cioè, andrebbe evitato in questo periodo? Questo è il punto fondamentale. Non necessariamente, anche perché non sappiamo realmente se il Covid può essere trasmesso con i rapporti sessuali oppure no. Uno si bacia, però se uno si bacia è chiaro che può essere trasmesso. Certo, cioè, certo. Cioè, lei, per esempio, i locali per scambisti li chiuderebbe? No, perché? No, ma infatti anch'io non li chiuderei. I locali per scambisti forse sono ancora più sicuri di tanti altri locali, per cui forse lì è forse un posto in cui si può stare particolarmente attenti, insomma ci sono molto più controlli che altrove. Sì, può darsi. Allora io però voglio chiedere una cosa alla signora Spina, lei ha mai avuto tra i suoi pazienti degli schiavi, cioè tra le persone che vengono da lei a consultarsi per dei problemi, che ne so, perché magari c'è, no? Certo. Cioè, lei ha tra i suoi pazienti degli schiavi, delle persone che fanno, degli uomini che fanno gli schiavi sessuali. Ma perché gli schiavi? Sì, diciamo che va, non dico molto di moda, ma in realtà è molto frequente trovare queste condizioni, soprattutto tra gli uomini che hanno dei ruoli magari di responsabilità o di potere. Come Parenzo, per esempio. Nella vita sessuale. Sì, nella vita sessuale. No, nella vita sessuale cambiano completamente ruolo e hanno bisogno di lasciarsi andare, di abbandonare. Per esempio, mi faccio un esempio di una situazione particolare di un uomo che si è fatto schiavo, che è diventato schiavo, cioè di un uomo che si è lasciato andare, un uomo di potere che si è lasciato andare, non facciamo nomi e cognomi, di pratiche che gli piace subire, soprattutto perché viene da lei, magari non è soddisfatto, magari pensa di essere un malato, pensa di essere troppo perverso. Perché vengono da lei questi qua? Beh, allora diciamo che alcuni vengono da me molto spesso spinti dalle compagne, perché quando sono schiavi non lo sono all'interno del loro rapporto di coppia, ma lo sono con delle mistress, quindi questo a un certo punto rischia di inficiare proprio il loro rapporto di coppia e allora? Per salvare il matrimonio decidono di andare in terapia. Poi le pratiche possono essere le più disparate. Per esempio, un paziente mi ha raccontato che in uno dei suoi incontri con una mistress è arrivato a farsi legare a una croce di Sant'Andrea e farsi frustare lì dalla mistress, ma anche da alcune sue amiche. Cioè, non ho capito. Quindi, questo qua si legava a una croce di Sant'Andrea? Mamma mia, cioè, si faceva ma è normale secondo voi tutto questo? C'è uno strumento tipico, ma uno strumento passaggio a al passaggio a livello oppure in casa sua? No, in casa. In un casa? Ambiente controllato. È uno strumento tipico delle pratiche BDSM, quelle un po' più hard. Sì, questo si faceva legare lì e si faceva frustare dalla mistress e da una sua amica e da, da varie amiche. E perché, perché è venuto da lei? Perché in questo caso rischia di mandare a monte il matrimonio per questa... Ma la moglie l'ha scoperto? Non lo ha scoperto, è stato lui a confessarglielo. Ah, ha confessato alla moglie, ma guarda, io mi faccio legare a una croce, mi faccio frustare e godo facendo questa cosa, giusto? Sì, sì, più o meno è andata così. Però io non ci trovo, scusa, Parenzo, no, perché uno deve andare, cioè perché uno dovrebbe andare da uno psicologo, da uno sessuologo perché si fa frustare? Ma io non mi permetto di, io per carità, se uno vuole farsi, guardate ragazzi, veramente con se affetto, uno si vuole far frustare attaccato a una croce. Se uno si vuole mettere su una croce e far frustare senza alcun motivo apparente e poi magari votare la Lega o i Fratelli d'Italia, io non ho nessun problema, cioè a me la cosa di per sé non interessa, nel senso che io personalmente stasera, no, ve lo dico, dice, cosa fai stasera? Una cosa noiosissima, torno a casa, cielo con mia moglie che ha fatto del pesce con le patate alla julienne, non e ti poi vuoi frustare, diciamo, no, ci guardiamo un film, poi magari vediamo, ma insomma, non mi faccio frustare, ecco, questo attaccato a una croce non attaccato una croce, diciamo, questo già in passato è avvenuto e non è stata una grande idea. Però dopodiché voglio dire, in tutta sincerità e affetto e amicizia, se uno vuole stasera alle 20:50 tornare a casa, farsi frustare, farsi pisciare in bocca, pestare, non lo so, fare quello che slave, mettere al guinzaglio, non ho problemi. Scusi, non signora venitemi Spina, però lei... a chiedere a me se è normale, cioè se mi chiedete un giudizio io non voglio che sia condiviso, se mi chiedete secondo normale. Te è normale, non mi potete dire che sono matto perché dico che non è normale, perché secondo me non è normale. Va bene. Allora, posso almeno mantenere questa voglio chiedere alla signora Spina idea, se sono sempre più le persone che vengono da lei magari confessando di subire del pissing, il pissing va di moda in questo periodo o no? No, insomma, diciamo che negli ultimi anni vanno di moda altri tipi di pratiche. Altra. Questa era una Bellissima. Pratica un po' più in vigore negli anni 90, fine 90, anni 80. Sì. Che tipo di pratiche? Perché comunque, insomma, era un po' più legata a una cosa piccolina, il pissing, intendo. Sì. Diciamo che negli ultimi anni il BDSM la fa da padrone, un po' in tutte le sue varie sfumature, sia quelle un po' più soft, sia quelle un po' più spinte, ecco, come l'esempio appena riferito. Quello della croce di Sant'Andrea, che però è un classico, diciamo, del BDSM, non è una cosa così strana. Io non capisco il bisogno di confessarsi con lei per salvare il matrimonio, ma che devi salvare? Se ti piace... Diciamo che ci sono ovviamente delle dinamiche molto più profonde. Se uno però gode facendosi frustare, signora mia, non c'è possibilità di scappare. Cioè, lo devi confessare a tua moglie. moglie, tua moglie dice vabbè, ogni tanto fatti frustare e poi resta a casa, ma qual è il problema? No, invece è proprio questo il problema all'interno della coppia, perché laddove questo tipo di pratiche non sono condivise all'interno della coppia si viene a creare uno squilibrio per cui il partner non ha questo tipo di preferenza. Sì, ma è inutile però mollare, cioè, perché tanto se ti piace farti frustare attaccato alla croce di Sant'Andrea o che ne so, in una sinagoga davanti a una, non lo so, ma perché, cioè, uno dovrebbe adesso farti frustare dove vi pare, ma perché proprio davanti a una sinagoga? Io voglio dire, fate quello, se uno piace questa pratica qui, ma fatelo a casa, va bene. Se uno piace farsi frustare, lo so, con un simbolo di qualsiasi cosa. In questo caso la croce di Sant'Andrea non è un simbolo religioso. Sì, lo so, tra l'altro è il sindaco, è il simbolo del passaggio del treno. Che ci comunicano. No, però lo voglio dire, tutte queste persone. Sì, ma se uno piace farsi frustare così, non è recuperabile la situazione. Non può trovare di nuovo un rapporto sessuale con la moglie. È impossibile, lei lo sa meglio di me. Deve trovare con la moglie un accordo. Io mi faccio frustare fuori dal matrimonio, poi però vengo a casa, ti do i bacetti, ogni tanto ti scopo. Questa è la sostanza. Diciamo che in realtà non è così semplice, perché poi le dinamiche all'interno della coppia sono molto più complesse, quindi in realtà l'accordo va trovato all'interno della coppia. Ma la donna che peraltro lei mi conferma, io l'ho scritto anche nel mio libro, è ormai è la donna che cerca nelle coppie di dire al marito, beh, facciamo qualche esperienza fuori sessuale. È sempre più la donna. Dunque, la signora in questione... Però, mi scusi se la interrompo, c'è un aspetto importante. È vero che è la donna che chiede al marito e spinge per trovare qualcosa di diverso, ma è anche vero che nella maggior parte dei casi la donna chiede che poi queste pratiche siano condivise. Sì, condivise, infatti. Centrale è proprio questo, ho capito, infatti uno deve confessare, questo qua che si fa frustare attaccato alla croce dovrebbe confessare e dire io non riesco a fare a meno di questa roba qui, godo solamente così, mettetevi l'anima in pace. Ragazzi, mascherino no quando si scopa, signora, io lo dico in maniera brutale perché nei giorni scorsi qualcuno ne ha parlato, mi dia una risposta secca. Mascherina sì o no? No, benissimo, no mask. Ragazzi, italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite su aruba.it.